mela del frutto d'amore, signora dei giorni passati. Carezze e sorrisi di amici lontani, e sfoglia fiabe ingiallite oramai. Ricorda di dolce alchimia profumate e petali tra le tue dita. Non vale arrendersi ad ogni sospiro che fai, non scordarti che devi correre più forte con tutto il fiato che hai. Forte, non devi arrenderti mai. Leggera, sontuosa farfalla bianca, per essere sempre più viva. Il vento la culla ogni suo movimento, è leggero come i pensieri che si appoggiano lente ai nostri labili corpi, sinceri ci lasciano fare. Che siamo capaci a punirci da soli, svelti a dimenticare. Che occorre correre più forte con tutto il fiato che hai. Forte con tutto il fiato che hai. E non lo sai che tu non devi arrenderti mai. Mai.